posarti un fiore rosso tra i capelli, per veder sorridere i tuoi occhi chiari e belli. Vorrei cantarti tante note colorate, per veder sorridere le tue labbra profumate. E tu arrivi sempre fresca, divertente, frizzante al punto giusto, una pasta cotta al dente. E tu sorridi e condividi anche il dolore, mi piace quel che fai, mi piace il tuo amore. Io sono un clown, forse un poeta, un menestrello, intreccio quattro versi, gioco con un ritornello. Ti guardo, penso, costruisco armonie, ti dono un po' di me cantando melodie. E tu arrivi sempre fresca, divertente, frizzante al punto giusto, una pasta cotta al dente. E tu sorridi e condividi anche il dolore, mi piace quel che fai, mi piace il tuo amore. Vieni da me domani sera, voglio prepararti una cosa buona e vera. Ti preparo il tuo cibo preferito, sano, nutriente e sapori. Per fare pasta e ceci la pasta non basta, ci vuole amore e tanto calore. Aglio, maggiorana, origano e cannella, fatica è così come fare un figlio. Olio che guarisce le ferite, peperoncino, un po' di dinamite, pane nutre il corpo ma anche il pensiero. Con il pomodoro il gusto più sincero. Per fare pasta e ceci la pasta non basta, ci vuole amore e tanto calore. Aglio, origano e cannella, fatica è così come fare un figlio. E tu arrivi sempre fresca, divertente, frizzante al punto giusto, una pasta cotta al dente. E tu sorridi e condividi anche il dolore, mi piace quel che fai, mi piace il tuo amore. Vorrei posarti un fiore rosso fra i capelli, per veder sorridere i tuoi occhi chiari e belli. Vorrei cantarti tante note colorate, per veder sorridere le tue labbra profumate.